1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:22 minuti, cari ascoltatori, allora pronti a leggere i giornali con voi e per voi. E vi ricordo che oggi parleremo di quella che è l'attualità politica, di finanziamento pubblico ai partiti, intanto un tema che sembra scomparso. Ci saranno con noi il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il deputato del PD Dario Nardella, che è primo firmatario di una proposta di legge per togliere il finanziamento ai partiti. Ovviamente l'attualità politica regala anche notizie su questa proposta di legge cosiddetta anti-Movimento 5 Stelle, ma vedremo tutto dai giornali. C'è anche il tema della ineleggibilità di Berlusconi, che torna prepotentemente, nei prossimi giorni si pronuncerà, o comunque dovranno svolgersi degli sviluppi importanti al Senato. Appunto, tutto questo è sui giornali che andiamo a sfogliare questo martedì 21 maggio. Per la verità le aperture sono diverse: Il Sole 24 Ore più un'apertura strettamente finanziaria, la cedola di Piazza Affari, dividendi per 12,2 miliardi. E poi la politica litigiosa per il Corriere della Sera: è un caso la legge anti-Grillo. La Stampa: regole del voto, lite PD Grillo. Per Libero: Grillo allo spiedo. Repubblica: Renzi, legge elettorale poi al voto. L'Unità: Obama Letta, prima il lavoro. Il Giornale: giù le mani dall'IVA. Come vedete, ognuno sceglie un'apertura diversa. Il Messaggero: lavoro, ecco il piano a costo zero. Il Fatto Quotidiano: idea PD, altro che Caimano, ineleggibili i 5 Stelle. Vabbè, questi sono alcuni dei titoli di apertura dei giornali, altri li vedremo più avanti. Intanto io voglio tornare su un tema di cui ci siamo occupati anche settimana scorsa. Sapete che uno dei temi è come reperire i soldi. Per esempio, pare si cerchino disperatamente 3 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'IVA di un punto di aliquota che scatta a luglio. Alcuni del PDL hanno sempre questa ideuzza che ogni tanto rispunta, poi ci sono le proteste, nel giro di qualche ora questa ideuzza muore ed è pronta a rispuntare la prossima occasione. È quella della riapertura dei termini del condono edilizio in Campania. È una fissazione che spunta come un fungo dopo un temporale notturno. E questa volta l'autore di un emendamento che per poche ore è sopravvissuto, poi dopo le bufere, le proteste, eccetera, è stato subito tolto, è il senatore Domenico De Siano del Popolo della Libertà. Appunto, ipotizzava di riaprire fino al 31 dicembre 2013 i termini del condono edilizio 2003 per la Campania, perché la Campania, sapete, l'abbiamo spiegato tante volte, è l'unica regione che non ha potuto godere di questo condono di cui ha goduto tutta l'Italia. Il PDL ripensa al condono, il PD parte con gli insulti, così Libero a pagina 12, ma anche l'Unità a pagina 3, condono edilizio, il PDL ci riprova. Per la verità il ministro Lupi ha detto che no, non è nel programma di governo, ma insomma c'è sempre questa cosa, qualche parlamentare del PDL campano che si butta in avanti, ci prova, fissa questo emendamento, lo piazza da qualche provvedimento di legge e poi dopo qualcuno se ne accorge e via, fino al prossimo tentativo. Anche per il Messaggero: il PDL rilancia il condono, scontro col PD, alla fine la proposta viene ritirata. Ci provano. Provare è lecito, evidentemente qualcuno la deve pensare così. Per il Giornale: il PDL prova invano a riaprire il condono 2003 a pagina 3, e questo è un titolo che abbiamo trovato varie volte negli ultimi anni in Italia. Ma cari ascoltatori, l'articolo del giorno è certamente spassoso, fa sorridere ma fa anche molto meditare. È di Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo è: querela la nuora, cucina male gli agnolotti. E non è una barzelletta, succede davvero in Italia. Gian Antonio Stella racconta quello che è il libro Precari fuori legge, curato da Paola Bellone, che è una VPO, mannaggia, che è una VPO, una vice procuratore onorario. questo significa la sigla, sono magistrati non di ruolo, magistrati che fanno anche un altro lavoro, ma che gestiscono moltissime cause anche importanti, moltissime cause anche spassose e ridicole, e il libro ne racconta alcune. Una è questa, proprio querela la nuora per gli agnolotti perché li cucina male. Ma poi l'articolo continua a pagina 11, sentite l'elenco di alcune delle cause che intasano i tribunali italiani. Il tutore della morale che denuncia: su entrambi i lati della strada due donne mostravano una le grandi tette e una il gran culo, e avrei voluto valutare meglio le misure della maggiorata, ma una violenta tirata d'orecchie mi ha fatto desistere, mia moglie non era d'accordo. Oppure c'è il processo al piccionicida, reo di aver ucciso un colombo. E ancora c'è il procedimento nei confronti di un padre che non vuol pagare gli alimenti e dichiara che avrebbe preferito mantenere tutti i bimbi della Bielorussia piuttosto che versare qualcosa per la propria prole. O ancora c'è questo che scrive questa lettera alla propria azienda: penso che nonostante le risorse finanziarie aziendali in rosso possiate permettervi di comprare delle gomme da masticare per la collega S.R. Quando si entra in quell'ufficio viene da svenire, ha un alito da fogna, e questo non aiuta il rapporto coi clienti. Ma che dobbiamo fare? Ma questo è lo spaccato d'Italia, cari italiani. Oppure c'è il padrone di una fabbrichetta che versa lo stipendio alla dipendente che l'ha respinto con la causale saldo prestazioni sessuali mese di ... Ancora i carabinieri che trovano un anatroccolo scomparso, poveri carabinieri pagati già non tantissimo. Pensate, i carabinieri che devono trovare l'anatroccolo scomparso, devono portarlo alla famiglia dell'anatroccolo scomparso e poi devono redigere il verbale, e scrivono nel verbale: alla vista di simili coetanei l'anatroccolo vi entrava gridando e festoso mentre gli altri facevano festa, e l'anatra madre non si scagliò contro l'anatroccolo, cosa che avrebbe fatto qualora l'anatroccolo fosse stato estraneo, e quindi deducono di aver trovato l'anatroccolo giusto per l'anatra madre giusta. Ecco, tutto questo, cari italiani, fa sorridere, fa ridere certamente, ma è lo spaccato di un'Italia in lite perenne, come racconta Gian Antonio Stella. C'è anche questa idea cancerogena del diritto, l'idea del diritto che ogni cittadino abbia il dovere di rivolgersi alla magistratura anche per motivi più ridicoli, più futili. Siamo il paese delle liti condominiali che sfociano in tribunale, vanno a intasare. Allora questo è il problema della giustizia, che ci siano dei deficienti che facciano queste cause e non il problema delle intercettazioni. È che essendo deficienti adesso per questa cosa mi querelleranno. Il lavoro sembra un mantra che da giorni si è sparso nel governo perché tutte le dichiarazioni sono su quel fronte. Bene, ovviamente, perché ce n'è bisogno, come molti italiani sanno. Ieri l'appello è stato anche del capo dello Stato, Giorgio Napolitano: misure per occupazione e sviluppo, trovate l'articolo a pagina 5, per contrastare, siamo sul Sole 24 Ore, per contrastare una crisi angosciante e drammatica occorre fare tutto il possibile per rilanciare il lavoro e lo sviluppo. Questo è l'appello di Giorgio Napolitano, mentre ieri sia PD, PDL hanno messo nel mirino la legge Fornero, la riforma Fornero da modificare. Questa è un po' l'obiettivo delle forze politiche. Anche per Repubblica: 9 milioni in difficoltà, Napolitano dice una crisi angosciante, anche Obama e Letta si sono chiamati. Ecco, io qui devo fare una parentesi un po' scettica. Ecco, che Obama chiami Letta per parlare dell'occupazione giovanile in Italia, io francamente è una vulgata che faccio un po' fatica a capire. Magari Obama, che ha un problema sulla Libia e che ieri ha fatto ancora un appello internazionale a dire cerchiamo di aiutare la Libia a non sprofondare nel caos, ecco, magari Obama ha questo tipo di preoccupazioni. Non che Obama sia una persona non sensibile, ma che il primo pensiero che non faccia dormire il leader della Casa Bianca sia il problema dell'occupazione giovanile in Italia. Ecco, francamente, come vengono raccontate, come viene raccontata ora il tenore della telefonata sui giornali, faccio leggermente fatica a capirlo. Magari sarà la terza, quarta preoccupazione del presidente americano, ecco, o quinta o sesta, o tra le prime 10, ecco, dai, tra le top 10. Comunque, per quel che riguarda il lavoro, domani è una giornata importante perché... importante, diciamo, il ministro Giovannini inizia a incontrare le parti sociali. Ecco, ho detto importante, insomma, interlocutoria, ecco, perché il Sole 24 Ore fa sapere che non ci saranno provvedimenti da presentare, ma si aprirà un tavolo. Ora anche qui non si vuole essere scettici, poi mi danno del pessimista cronico, ma insomma in Italia in genere quando si aprono i tavoli non è che si apre un tavolo, ecco, diciamo così. Davide Colombo, tutti i dettagli a pagina 4, regole semplici per il lavoro. Giovannini domani ripeterà sicuramente alle parti sociali alcune delle cose dette settimana scorsa alle Camere, dove ha spiegato chiaramente che il governo ha un colpo solo da sparare. Questa immagine anche cruenta per dire come la situazione sia delicata. Un solo colpo da sparare per tentare di centrare l'obiettivo di una ripresa dell'economia e della produzione accompagnata da nuove assunzioni. In questa parte del pacchetto potrebbero rientrare, allora siamo sempre alle ipotesi, le misure di semplificazione di oneri amministrativi solo formali in materia di sicurezza e lavoro. Modelli standard per le comunicazioni obbligatorie che erano state inserite in DDL di ottobre che non hanno mai visto la luce. Interventi che potrebbero intaccare oneri già misurati e valutati nell'ordine di 4,6 miliardi l'anno per le imprese. Altre misure a costo zero che in parte potrebbero diventare subito operative. Sono appunto queste. La seconda fase del pacchetto Giovannini passa per Bruxelles, dai margini di maggiore agibilità finanziaria che potrebbero dischiudersi con un via libera alla chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo. La strategia in questo caso punta su anticipare l'utilizzo delle risorse previste dal piano Youth Guarantee dal 2014 al 2020 per assumere giovani. Sono 6 miliardi in tutto. 400 milioni sono destinati all'Italia, l'ipotesi è quella di chiedere un anticipo di queste risorse. Insomma, domani si incontrano, apre il tavolo delle trattative governo parti sociali. Dall'altra parte la politica fa assistere a un'altra giornata un po' di impazzimento. Su tutti i giornali troverete oggi una proposta di legge, che è una proposta di legge vecchia, che è stata riproposta dai capogruppi Finocchiaro e Zanda. Cioè Zanda è capogruppo, Finocchiaro no, primi firmatari sono loro, quindi del PD. Una proposta di legge di cui si discute oggi sui giornali, ma che probabilmente è una proposta di legge già morta. Perché? Vediamo di spiegarlo. Beh, è una legge sui partiti. È una legge non nuova, ma che hanno riproposto Zanda e Finocchiaro, primi firmatari, come racconta il Sole 24 Ore, pagina 16. È una proposta di legge che in pratica apre le competizioni elettorali con nuove regole per i partiti politici, cioè potranno partecipare solamente alle elezioni, secondo questa proposta di legge, le associazioni riconosciute con personalità giuridica e con uno statuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco subito 9 articoli per dire è la legge antigrillo, perché il Movimento 5 Stelle è un non partito, ha un non statuto, e dunque passasse questa legge, ecco che il Movimento 5 Stelle, così come è strutturato oggi, non potrebbe certamente concorrere alle elezioni. Zanda, uno dei due firmatari, capogruppo, a Repubblica ha intervistato Alberto D'Argenio e dice: ma è una bufera mediatica, sapete che c'è? Ritiro il testo. Ma come? È una proposta di legge presentata. Ma questo è il titolo. Io non voglio punire nessuno, la bufera è pretestuosa, ritiro il testo. Pagina 7. Quindi si sta discutendo di una cosa che presumibilmente è già morta nella culla. Sono stupito, dice Zanda, mi sembra una polemica del tutto strumentale a un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura. Quando è stato presentato la prima volta, il Movimento 5 Stelle non era nemmeno in Parlamento e a nessuno, tanto meno ad Anna Finocchiaro, che era la prima firmataria, è mai passato per la testa che potesse riguardare questo o quel partito. E ora che fate? Chiede D'Argenio. Tirate dritto? A me interessa la discussione sulla democrazia interna dei partiti. Per quanto mi riguarda, se l'interpretazione è così strumentale e si viene a creare una situazione per cui la norma non mi interessa più. Dunque lo lasciate cadere? Penso che l'Italia abbia cose più serie di cui occuparsi, anche se credo che al paese farebbe bene avere una normativa sui partiti politici. Vabbè, per la verità Zanda fa anche un'altra intervista, la trovate in versione La Stampa, un po' più soft, cioè non dice non ritiro nulla, non è una legge per colpire qualcuno, l'aspettiamo da 30 anni e vabbè. L'altro tema su cui si discute è, vedete, un altro tema nuovo da settimane si ripropone, l'ineleggibilità o presunta tale di Silvio Berlusconi, ma siamo alle strette finali perché manca da nominare solo un presidente di una commissione, la commissione per l'immunità... bla bla bla bla al Senato, non so come la dicitura giusta, comunque si riunisce oggi credo la commissione, dovranno scegliere il presidente che spetta all'opposizione per tradizione e in base a chi sarà scelto presidente, certo questa questione della richiesta di ineleggibilità di Berlusconi in base a una legge del 1957 che nelle precedenti volte in cui è stato eletto Berlusconi è stata interpretata a favore di Berlusconi, ma che adesso qualcuno vorrebbe fosse interpretata in maniera stringente, cioè i beneficiari di concessioni pubbliche come quelle televisive sono ineleggibili, dice in senso molto molto stretto quella legge. E qualcuno dice allora Berlusconi non è eleggibile. Chi sarà eletto presidente di questa commissione? In pole position c'è il leghista Raffaele Volpi. Così raccontano i giornali, per esempio il Corriere a pagina 3. Cavaliere ineleggibile, la mozione dei 5 Stelle minaccia anche il governo. Perché sono i grillini che dicono... soprattutto porremo questa mozione, il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Vito Crimi viene intervistato dalla Stampa pagina 3, intervistato da Andrea Malaguti, dice non lo diciamo noi che Berlusconi è ineleggibile, lo dice la legge, noi lo rivendichiamo con forza, sarà la prima cosa che sottolineeremo oggi nella giunta per le elezioni, ci sediamo e solleviamo il problema, Berlusconi non può stare in Senato, così Vito Crimi. Chi altri non ci può stare? Sempre a norma di legge non ci possono stare i suoi avvocati, Ghedini certamente e anche Longo, dunque non vuole neanche per la legge gli avvocati Vito Crimi. Pensa che il PD si schiererà al vostro fianco? Lo immagino, anche se ho molti, anche se ho dei dubbi sulle loro reali motivazioni. Lo fanno perché ci credono o semplicemente perché sono convinti che neppure la Cassazione stavolta salverà Berlusconi? E comunque, dice Vito Crimi, l'ineleggibilità di Berlusconi potrebbe portare alla caduta del governo. La risposta di Vito Crimi è possibile che accada. Insomma, Crimi, sull'ineleggibilità questo governo rischia di cadere e questo è un tema... che si svilupperà nei prossimi giorni. A proposito del Movimento 5 Stelle, oh, l'idillio con Milena Gabanelli, finito, finito. Era stata scelta per le Quirinarie da portare al Quirinale, ha fatto un'inchiesta sul report, è diventata per molti la traditrice pagata dal PD e dal PD Menuelle. Non sono né venduta né prezzolata al mio mestiere fare la giornalista. In un'intervista a Repubblica Milena Gabanelli risponde così alle tante critiche che le sono piovute addosso dopo l'inchiesta sul report che chiedeva tra l'altro se il blog di Beppe Grillo finanziasse in parte anche il Movimento 5 Stelle. Beh, qui è finito l'idillio, Grillo contro Gabanelli, l'idillio si rompe sui soldi, così il Fatto Quotidiano, leggiamo qualche titolo prima dell'intervista alla Gabanelli, il secolo 19, pagina 3, conti in tasca al Movimento 5 Stelle, la rete non perdona, Gabanelli traditrice, l'unità Gabanelli dal Colle agli insulti 5 Stelle, ebbene sì perché era lei, colei che era stata scelta nelle Quirinarie per rappresentare, era quella che era stata scelta nel Movimento 5 Stelle, cioè voteremo la Gabanelli, poi ricordate che lei ha declinato questo invito, ma insomma Milena Gabanelli intervistata da Repubblica appunto dice sono state dette cose non vere, in tal caso vengano precisate, noi le pubblicheremo, guardi come è noto io non appartengo a alcun partito e poi mi hanno chiamato anche ex DS incazzati, ma io faccio questo mestiere. Beppe Grillo? No, non l'ho sentito, le uniche chiamate sono quelli di ex DS che si lamentano e mi hanno insultato. L'ha presa male una fetta di web, chiede Repubblica, ma l'importante è che non sia vero che io sia prezzolata, io faccio la giornalista. Insomma, si difende così e dice se ho detto qualcosa di sbagliato farò la rettifica come sempre e via. Ma certo, un rapporto, come dire, naufragato nel giro nel giro del tempo di un'inchiesta. C'è da dire che le parole di Matteo Renzi qua ieri a Radio 24 hanno fatto discutere tutta la giornata, quell'IMU cambiale pagata al governo Berlusconi, cioè a Silvio Berlusconi, non al governo Berlusconi, l'IMU pagata, una cambiale pagata a Silvio Berlusconi, ha tenuto banco. Epifani, avete sentito, segretario del PD, ha replicato: non è una cambiale pagata a nessuno, è una scelta del buonsenso. Beh, insomma, il PD ha a che fare con questi problemucci, tanto che racconta in un retroscena Goffredo De Marchis sulla prima di Repubblica. Letta, scrive De Marchis, ha messo nel conto le punture quasi quotidiane di Renzi. Io, dice Letta, devo infilare la testa nel lavoro di governo che è immane. Quando potrò rialzarla, vedremo qual è il quadro. Per fortuna adesso al PD c'è Epifani e tocca a lui rispondere alle polemiche, anche a quelle di Matteo. Dunque, un Enrico Letta, poi continua l'articolo a pagina 3, che racconta Repubblica, nonostante abbia fatto un patto, abbia stretto un patto, ci ha raccontato di questo patto anche Matteo Renzi ieri qui ai nostri microfoni, con lo stesso sindaco di Firenze per una sorta di compromesso per rafforzarsi a vicenda, un Enrico Letta che si aspetta punture quotidiane da Renzi, un Renzi che viene dato da Repubblica in perenne campagna elettorale. Anche Letta sull'IMU dice: non è un regalo a nessuno, è un regalo al buonsenso, ha detto Epifani, e non c'è nulla da aggiungere a questa frase che è perfetta. E poi nessuno sa come verrà risolta la questione, nemmeno Renzi. E qui eccoci, attenzione a questa frase attribuita a Letta: magari si finisce per tassare le case di lusso come vuole il PD, non sarebbe una cambiale pagata a Berlusconi. Così, insomma, in questo retroscena di Repubblica, Enrico Letta avrebbe tra le ipotesi in studio quella di tassare le case di lusso come vuole il Partito Democratico. Avete sentito, cari italiani? Avete preso nota? Vabbè, giuro, lo dico tre volte, che non ho riso quando ho letto il titolo: Napolitano accelera sulle riforme per la legge elettorale usando il pungolo ai partiti. Giuro di non avere riso. Non so come ho fatto, ma non ho riso, perché la questione della legge elettorale e del pungolo, del monito, di tutto quello che, insomma, ci volete mettere, Napolitano è una storia che, insomma, si sente da tre anni. È stata anche la vicenda per cui, quando è stato rieletto, è andato al Parlamento a dirgli: non avete fatto nulla alla riforma elettorale, ve lo dicevo da mesi, e quelli: bravo! E lo applaudivano. Ecco, quindi non ho riso, però questa è la notizia leggendo questo titolo: Napolitano accelera facendo il pungolo ai partiti. Bisogna fare la riforma elettorale. Tra l'altro siamo nella terza settimana decisiva per la riforma elettorale. La cronaca è soprattutto la notizia del bambino conteso a Cittadella. È brutto definirlo così, ma ormai sembra, almeno dalle cronache dei giornali, definito così. Ricordate quel bimbo protagonista, suo malgrado, di un video in cui fu portato via da una scuola perché doveva essere affidato al padre e invece che alla madre, con le urla, l'intervento della polizia, le tante polemiche. Beh, Cittadella, l'ultimo verdetto sul bimbo conteso: torni dal padre, ma potrà stare con la madre. Si è espressa la Corte d'Appello di Brescia, che ha detto: la madre ha tenuto un comportamento alienante e possessivo. Tutti i giornali dedicano almeno una pagina, anche La Stampa, un bel articolo con Marco Neirotti. Terza decisione dei giudici: al padre il bimbo conteso. È un bimbo o un pacco? Inizia così l'articolo. In realtà, racconta Neirotti, certo, questa è la sensazione, che sia un pacco postale, ma è giusto che decidano i tribunali in questa situazione talmente complicata e che sia talmente intricata. Ma certo, fa davvero male vedere che ci siano già state tre sentenze, ognuna diversa dall'altra, in una situazione complicata, con un bambino che ha già subito quello che ha subito. Ma trovate queste notizie tutte, almeno sviluppate in una pagina, sui giornali.